Al-Mujadila, la disputante. Bismillahirrahmanirrahim. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. Allah ha udito il discorso di colei che discuteva con te a proposito del suo sposo e si lamentava davanti ad Allah. Allah ascoltava il vostro colloquio. Allah è udiente e vede con chiarezza. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ. Quanti fra voi che ripudiano le loro mogli dicendo «Sii per me come la schiena di mia madre»? Sappiano che esse non sono affatto le loro madri. Le loro madri sono quelle che li hanno partoriti. In verità proferiscono qualcosa di riprovevole e una menzogna. Tuttavia Allah è indulgente, perdonatore. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. Coloro che paragonano le loro mogli alla schiena delle loro madri e poi si pentono di quello che hanno detto, liberino uno schiavo prima di riprendere i rapporti coniugali. Siete esortati a far ciò. Allah è ben informato di quello che fate. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. E colui che non ne abbia mezzi digiuni allora per 2 mesi consecutivi prima di riprendere i rapporti coniugali. E chi non ne abbia la possibilità, nutra 60 poveri. Ciò vi è imposto affinché crediate in Allah e nel suo inviato. Questi sono i limiti di Allah. I miscredenti avranno un doloroso castigo. Inna alladhina yuha الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا بالبينات وللكافرين عذاب مهين. In verità, coloro che si oppongono ad Allah e al suo inviato saranno sgominati come lo furono coloro che li precedettero. Già facemmo scendere prove inequivocabili. I miscredenti subiranno un violento castigo. يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. Nel giorno in cui Allah tutti li resusciterà e li informerà delle loro opere. Allah le ha contate, mentre essi le hanno dimenticate. Allah è testimone di ogni cosa. Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. Non vedi che Allah conosce quel che è nei cieli e sulla terra? Non c'è conciliabolo a tre in cui egli non sia il quarto, né a cinque in cui non sia il sesto. Siano in più o in meno, egli è con loro ovunque si trovino. Poi nel giorno della resurrezione li porrà di fronte a quello che avranno fatto. In verità Allah conosce ogni cosa. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. Non hai visto coloro ai quali sono stati vietati i conciliaboli? Hanno ricominciato a fare quel che era stato loro vietato e tengono conciliaboli peccaminosi, ostili e di disobbedienza nei confronti dell'inviato. Quando vengono a te, ti salutano in un modo in cui Allah non ti ha salutato e dicono in cuor loro: perché Allah non ci castiga per quel che diciamo? Basterà loro l'inferno in cui saranno precipitati. Qual tristo avvenire! يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. O credenti, non siano peccaminosi, ostili e di disobbedienza nei confronti dell'inviato i vostri colloqui privati, ma nel bene e nel timor di Allah. Temete Allah, davanti al quale sarete radunati. إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Il conciliabolo non è altro che opera di Satana per affliggere i credenti, ma in nulla può nuocer loro senza il permesso di Allah. Confidino dunque in Allah i credenti. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. O credenti, quando vi si dice «Fate spazio agli altri nelle assemblee», allora fatelo. Allah vi farà spazio in paradiso. E quando vi si dice «Alzatevi», fatelo. Allah innalzerà il livello di coloro che credono e che hanno ricevuto la scienza. Allah è ben informato di quel che fate. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. O credenti, quando desiderate un incontro privato con il messaggero, fate precedere il vostro incontro da un'elemosina. È meglio per voi e più puro. Se però non ne avete i mezzi, in verità Allah è perdonatore, misericordioso. أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Forse temete di cadere in miseria se farete precedere un'elemosina ai vostri incontri privati con l'inviato? Se non lo avrete fatto, e che Allah accolga il vostro pentimento, Eseguite l'orazione, versate la decima e obbedite ad Allah e al suo inviato. Allah è ben informato di quello che fate. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Non hai visto coloro che si sono alleati con quelli con i quali Allah è adirato? Non sono né dei vostri né dei loro, e giurano il falso sapendo di farlo. A'addallahu lahum 'adaban shadida. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Allah ha preparato per loro un severo castigo. È malvagio quel che hanno commesso. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. Facendosi scudo dei loro giuramenti, frappongono ostacoli sulla via di Allah. Avranno un avvilente castigo. Lan tughniya anhum amwaluhum wa la auladuhum min Allahi shay'a. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. I loro beni e la loro progenie non gioveranno loro in alcun modo contro Allah. Sono i compagni del fuoco in cui rimarranno in perpetuo. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. Il giorno in cui Allah li resusciterà tutti, giureranno davanti a Lui come giuravano davanti a voi, credendo di basarsi su qualcosa di vero. Non sono forse loro i bugiardi? Istahwadha alayhimu shaytanu fa ansahum dhikrallah. Ulaika hizbu shaytan. Ala inna hizba shaytani humul khasirun. Satana si è impadronito di loro al punto di far sì che dimenticassero il ricordo di Allah. Sono il partito di Satana, e il partito di Satana in verità è perdente. Innal ladhina yuhadduna Allaha wa rasulahu ulaika fil azallin. In verità, coloro che si oppongono ad Allah e al suo inviato saranno fra i più umiliati. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. Allah ha scritto: in vero vincerò io e i miei messaggeri. In verità Allah è forte, eccelso. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. Non troverai alcuno tra la gente che crede in Allah e nell'ultimo giorno che sia amico di coloro che si oppongono ad Allah e al suo inviato, fossero anche i loro padri, i loro figli, i loro fratelli o appartenessero al loro clan. Egli ha impresso la fede nei loro cuori e li ha rafforzati con uno spirito proveniente da lui. Li farà entrare nei giardini dove scorrono i ruscelli, in cui rimarranno in perpetuo. Allah si compiace di loro e loro si compiacciono di lui. Essi sono il partito di Allah. Ebbene, il partito di Allah non è forse quello di coloro che trionferanno?